La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Oltre 14 milioni di donne italiane sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita. Torniamo a parlare di violenza sulle donne, torniamo a parlare oggi di questo argomento perché è la giornata nazionale contro la violenza maschile sulle donne e a Roma, da Piazza della Repubblica alle ore 14, partirà un corteo di donne auto-organizzato. La giornata invece è il 25 novembre. Oggi si manifesta, ma si manifesta fino al 25 novembre. E sappiamo che purtroppo il tema delle donne, della violenza sulle donne, non è solo italiano, ma anche internazionale. E sappiamo benissimo che già la scorsa settimana ancora una notizia dall'Afghanistan, una ragazza sfregiata dagli integralisti mentre si recava a scuola. Perché? Perché secondo gli integralisti, secondo i talebani, le donne non devono studiare, e invece lei ha detto: io comunque continuerò ad andarci, vorrò di nuovo tornare a scuola. Per parlare di questo e di altri problemi abbiamo Cristiana Scoppa, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, Elena Doni, giornalista, autrice de Il Volto Cancellato, storia di Fakra dal dramma alla rinascita della Mondadori, e poi Clarice Felli dell'associazione Smile Again, che si occupa proprio di donne sfregiate. Allora parliamo subito con Clarice Felli. Lei sta organizzando una casa di ricovero per queste ragazze. Come ha iniziato la sua attività, che cosa ha trovato e quali sono i problemi contingenti? Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Io iniziai 7 anni fa per caso. Mi appassionò questo tipo di argomento e fondai l'associazione Smile Again. Attualmente lavoriamo in Pakistan, e in Pakistan c'è la signora Masarab Misbah, che è l'altra presidente della Smile Again, e lì stiamo attuando un grosso progetto, che è quello di realizzare un ospedale con annesso un centro di riabilitazione per queste donne. I problemi che hanno queste donne dopo essere state sfregiate sono anche problemi di cecità. Queste donne hanno un problema fisico, chiaramente, poi bisogna affrontare il problema psicologico, e quello più grande, che è la più grossa scommessa, è il reinserimento sociale di queste donne. Attualmente abbiamo un piccolo progetto all'Aquila, sono ospiti presso la provincia dell'Aquila 2 ragazze, di cui una è non vedente, e stanno frequentando un corso di Braille per aiutare queste donne a reinserirsi in un mondo del lavoro. E vengono chiaramente sfregiate, inutile dirlo, purtroppo, sì, con purtroppo il vetriolo. Purtroppo ne abbiamo tanti di casi, perché spesso ovviamente gli occhi sono la prima parte del corpo che viene danneggiata. Spesso le più fortunate ne perdono uno solo, e purtroppo abbiamo tanti casi che invece con lungo andare perdono anche l'altro, quindi abbiamo tanti casi di donne non vedenti. Elena Doni, lei ha scritto un libro, Il Volto Cancellato, storia di Fakra dal dramma alla rinascita. Qual era la storia di questa donna? È riuscita poi a superare questo gravissimo handicap? Direi in buona parte sì, ma la storia di Fakra è anche una storia italiana, e di quando l'Italia miracolosamente, devo dire anche molto grazie all'interessamento, alla solerzia di Clarice Felli, quando l'Italia si esprime al meglio, perché l'Italia ha realmente ridato la vita a Fakra, che quando è venuta non poteva neppure alzare il viso per guardare il suo bambino, perché la cicatrizzazione le aveva incollato praticamente il mento al petto, allo sterno, tanto che ci fu un enorme problema per intubarla, per poterla operare. È stato un miracolo italiano, perché c'è stata un'accoglienza, la possibilità di sistemarla, di operarla nelle strutture pubbliche in modo che non ci fossero delle spese, di ricoverarla in uno luogo protetto, perché tra un'operazione e l'altra, perché ne ha subite moltissime, e non c'è quasi fine, dice il chirurgo, il professor Cervelli, che l'ha operata, perché era necessarissimo fare alcune operazioni per ridarle l'uso del proprio corpo e poi ridare la bellezza purtroppo non sarà possibile, ma rendere il suo viso più gradevole è una cosa che può andare avanti ancora a lungo. Insomma, quindi una storia di una donna che si salva. Abbiamo sentito anche Clarice Felli che si occupa di questo problema da anni. Qual è quindi la situazione delle donne nel mondo, sempre più soprusi? Ricordiamo anche quello che è successo in Italia ieri. Un imprenditore, un commercialista, anzi scusate, di Verona ha sparato alla moglie e ai figli e poi si è suicidato. Quindi la violenza sulle donne continua e Cristiana Scoppa dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo si è occupato proprio di promuovere l'uguaglianza di genere nel mondo. Ma è possibile, perché si parla sempre di cultura, questa cultura che poi si contrappone a quello che è l'uguaglianza, molto spesso viene purtroppo contrapposta a quella che è l'uguaglianza. Ma sì, buongiorno a voi, direi senz'altro sì. In realtà AIDOS, l'associazione per cui lavoro, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, fa questo lavoro attraverso dei progetti concreti che intervengono in campi quali la salute, la partecipazione economica delle donne, i diritti e la partecipazione pubblica. Però nel nostro lavoro, così come poi è stato riconosciuto ufficialmente quest'anno dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, che il 12 novembre ha presentato un rapporto veramente interessante, se non si lavora contemporaneamente sui modelli culturali non serve investire, o non serve, o meglio, le risorse che si investono hanno un effetto molto più limitato di quello che uno ci si aspetta, nel senso che nelle persone interiorizzati ci sono dei modelli di comportamento che fanno sì che a un vero uomo corrispondano certi, diciamo, certi comportamenti e a una donna come si deve ne corrispondano altri. Questi, diciamo, modelli sono così interiorizzati che alle volte le donne stesse finiscono per non riconoscere che quello che viene fatto loro è una violenza, e la violenza è l'esempio forse più estremo di come funziona la cultura. Contemporaneamente, ed è questo il valore veramente notevole di questo rapporto delle Nazioni Unite, l'UNFPA dice che la cultura non è una cosa statica. Nel corso dei millenni, diciamo, la cultura si è sempre evoluta, le società hanno sempre avuto al loro interno delle personalità che sono state le avanguardie, che hanno promosso dei comportamenti diversi, più orientati a quello che alcuni percepivano essere veramente l'interpretazione di valori quali il benessere, la salute, la giustizia, la pace, e che queste avanguardie possono essere trovate in qualsiasi società, ed è con queste avanguardie che le organizzazioni internazionali, a cominciare dalle grandi organizzazioni delle Nazioni Unite, devono lavorare per promuovere un cambiamento dall'interno, per far sì che concetti come la parità, per esempio, tra uomini e donne, o quello che loro chiamano uguaglianza di genere, vuol dire l'uguaglianza di diritti, di capacità, di opportunità, pur rispettando le differenze che ci sono naturalmente tra uomini e donne, diventino patrimonio appropriato proprio da parte degli individui e delle comunità, e funzionino poi a loro volta da supporto ai progetti di sviluppo, progressivamente attuando appunto quelle condizioni che permettono poi a uomini e donne di scegliere di non subire o di non praticare, nel caso degli uomini, la violenza. Clarice Felli, di Smile Again, nella sua esperienza, perché queste ragazze vengono sfregiate? Qual è il motivo orrendo, ovviamente? Ma diciamo che il motivo è uno dei più banali, e comunque in ogni caso non c'è nessuna motivazione che possa far sì che venga accettato un tipo di violenza. Io vorrei ricordare che intanto questa tipo di violenza, denominata appunto acidificazione, non avviene soltanto nei paesi musulmani, ma avviene anche in Cambogia, avviene anche in Africa. Noi abbiamo operato anche una ragazza proveniente dalla Nigeria, quindi il fenomeno è molto più vasto. Spesso non se ne parla o se ne parla poco, però io rifletterei molto sulle grandi organizzazioni e sulla politica in genere che si fa, perché la violenza in Italia non è stata debellata. Dopo 30 anni di movimenti femministi, ancora appunto, ha citato lei ieri il caso quello dell'Italia, di Verona, quello che è successo, ecco, a Verona. Quindi vuol dire che, secondo me, dal mio piccolo modesto parere, penso che la politica ha abbandonato questo tipo di battaglie, in modo trasversale l'ha abbandonata, le famiglie sono abbandonate a se stesse, le donne sono abbandonate a se stesse, non ci sono nessun tipo di aiuto economico per le ragazze madri a sostegno delle donne e delle famiglie, quindi è ovvio che all'interno di un piccolo nucleo poi si scatena una violenza. La quota rosa. E torniamo a parlare di violenza sulle donne. Avevamo con noi Clarice Felli dell'associazione Smile Again. Io le ho chiesto appunto qual è il motivo, la motivazione, qual è il pretesto, forse sarebbe meglio dire, per il quale queste ragazze sono sfregiate. Il pretesto è appunto quello o di un abbandono di un finanziamento o perché la dote non era abbastanza alta rispetto alle aspettative che aveva l'altra famiglia, comunque insomma non ci sono motivazioni, il problema è uno solo, che è il modello maschile, che è dirompente, anzi diciamo che sono tutte e due vittime per un paradosso, perché se l'uomo non tirasse l'acido non verrebbe considerato un uomo, questa è la realtà. Beh, lei ha ragione, però noi chiaramente anche lei per quello che fa, ovviamente io li reputo degli assassini, alla stregua degli assassini, mi dispiace, credo che lo reputi anche lei un uomo che getta del vetriolo sulla faccia di una donna. Clarice Felli, una puntualizzazione, lei sta mettendo su questo centro all'Aquila, questo centro in Pakistan, è sovvenzionata dallo Stato, perché ha parlato appunto dell'abbandono dello Stato, o sono sovvenzioni private? Guardi, noi come piccola associazione facciamo molta fatica, tantissima fatica a avere finanziamenti dello Stato, regionali o comunali, perché di fatto i finanziamenti non vanno a progetto ma vanno a storie personali di varie associazioni. È ovvio che se io devo fare degli interventi a una ragazza ho bisogno di finanziamenti, se non si fanno gli interventi non può emergere questo tipo di violenza, se in Pakistan non si fanno alcune cose, determinate cose, ovviamente queste donne si perderanno per strada e si ricomincerà di nuovo. Allora, se no parleremo sempre di questo tipo di violenza. Allora, la violenza si può debellare se ci sono finanziamenti, se non c'è un progetto a 360 gradi, se non si ferma soltanto alla parte chirurgica ma all'inserimento di queste donne nel loro contesto, e questa è la scommessa che stiamo facendo io e Massarat. È ovvio che se io fra 10 anni le parlo ancora di donne acidificate vuol dire che è stato un fallimento di Smile Again. Io penso che quello che lei sta facendo non sarà mai un fallimento, perché aiuta delle persone in difficoltà. No, è un fallimento nel senso che il mio compito è stato quello di far emergere questo problema, soprattutto anche in Italia, che ancora se non ci fosse stata Smile Again non si parlava di questo problema, se non in modo marginale, appunto in giornate tipo Festa della Donna, e finiva lì. Smile Again ha voluto dare un segnale. È ovvio che adesso tutto il lavoro lo sta facendo la signora Massarat, perché lei è lì sul posto e sono le sue donne, e soltanto in questo modo si può cambiare una società. Il vostro sito? Il nostro sito è www.smileagain.it. E quindi è per qualsiasi informazione, anche per sovvenzioni, si può telefonare a voi. La ringrazio, grazie, signora Felli. E Cristiana Scoppa, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Insomma, lo Stato abbandona anche le persone che cercano di fare beneficenza. Abbiamo sentito una denuncia da parte di Clarice Felli dell'associazione Smile Again. Sì, a questa possiamo forse aggiungerne un'altra, nel senso che il nostro governo sta tagliando i finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo in maniera drastica, quindi non solo diciamo a livello nazionale si riscontra la difficoltà di cui parlava Clarice Felli, a cui va non solo tutta la mia stima ma anche l'ammirazione per il coraggio con cui poi è intervenuta in questo campo. Noi abbiamo sempre puntato a far emergere le questioni che riguardano le donne sui media. AIDOS esiste dall'81 e la violenza contro le donne è costantemente nei nostri pensieri, abbiamo lavorato su questo in altri paesi, non certamente sul fenomeno delle ragazze acidificate, ma in generale sulla violenza. Ed è vero quello che diceva Clarice ancora una volta e che l'UNFP per la prima volta dice in questo rapporto. In questo senso però vorrei anche dire che notiamo un segnale positivo, cioè il fatto che un'agenzia delle Nazioni Unite, dopo 2 anni di riflessione interna, faccia una sorta di autocritica e dica: fino a che noi pensiamo di migliorare la condizione della popolazione, riducendo la mortalità materna, aumentando l'accesso al diritto di scegliere la pianificazione familiare per le donne, lavorando sulla salute, lavorando sulla prevenzione dell'AIDS, eccetera, e non prendiamo in considerazione i modelli culturali che spingono ad assumere comportamenti che si traducono per le donne in un danno, e tra questi questo rapporto per la prima volta usa delle parole che normalmente, diciamo, noi collochiamo nel linguaggio femminista e lo giudichiamo quasi un po' antiche, no? Per esempio, per la prima volta parla di società patriarcali, ed è quella cosa dei modelli maschili cui faceva riferimento Clarice Felli. Ecco, fino a che non si affronta questo nodo e lo si affronta coerentemente con i progetti di sviluppo per la salute e per l'istruzione, questo nodo continuerà, diciamo, a influire negativamente sulle possibilità che questi progetti abbiano successo. Se però poi contemporaneamente i paesi donatori che finanziano questo tipo di attività nei paesi poveri, che non hanno sufficienti risorse, esattamente, poi tagliano i fondi, si immagini che l'Agenzia delle Nazioni Unite è un cane che si morde la coda. Esattamente, attualmente il contributo previsto all'Agenzia delle Nazioni Unite, come l'UNFPA, che lavora proprio su questi temi, sulla violenza contro le donne, sulla prevenzione della fistola ostetrica, sui matrimoni precoci, su tutta una serie di comportamenti culturali che però sono dannosi per le donne, ecco, il contributo italiano per l'anno prossimo sarà di 500.000 euro. Ora, 500.000 euro è un unico progetto, un unico intervento in un unico paese, non possiamo neanche immaginare quale. Immagini che il consultorio che noi abbiamo realizzato, diciamo, in Nepal è costato circa 600.000 euro. Insomma, ed era l'avvio del consultorio. . Ora, per continuare a mantenerlo occorre raccogliere fondi per garantire i salari in costanza, per garantire i servizi alle donne più povere che quindi non possono pagare. Quindi solo fondi privati alla fine, cioè solo... Sì, anche di organizzazioni, certo. L'Unione Europea ha una serie di linee di bilancio, però poi alla fine sono le nostre tasse che attraverso le decisioni dei governi finiscono in certe direzioni piuttosto che in altre, no? E l'Italia non sta certo, come dire, brillando in questo momento da questo punto di vista, pur avendone preso una serie di impegni che sono stati presi in tanti contesti internazionali, ed è questa la cosa che più, se vogliamo, fa male, perché oramai, come diceva giustamente Clarice Felli, l'informazione circola, le persone sono diventate molto più consapevoli, no, di che cosa si potrebbe anche fare per evitare nel tempo, nel futuro, che queste cose accadano, cioè lavorare anche su questi modelli culturali per far sì che gli uomini, come, certo, dire, trattengano la mano. La devo interrompere perché dobbiamo dare spazio anche alle altre ospiti. Allora, Stefania Bartoccetti, presidente di Telefono Rosa, un'altra telefono donna. Buongiorno. Abbiamo parlato appunto con le nostre ospiti della situazione internazionale, della ragazza sfregiata con il vetriolo in Afghanistan. Con lei parliamo di quanto sta succedendo in Italia. Prima di tutto abbiamo visto la strage di Verona, un commercialista che uccide mogli, 3 figli. E poi si spara, insomma, di nuovo una violenza molto pesante sulla donna. Lei chiaramente è una delle promotrici di questa manifestazione contro la violenza sulle donne, e però ha fatto anche un po', c'è stata anche una polemica sul manifesto che ritraeva una donna crocifissa. Per quale motivo? Sì, che poi crocifissa proprio no, in realtà tutte le donne che sono vittime di stupri e di violenza domestica, per chi le ha avvicinate, si sentono, ascoltano proprio dalla parola delle donne che si sentono messe in croce da quest'uomo. Quindi io non ho crocefisso, non ho un'immagine dove la donna è crocefissa, si immagina, si avvicina, però la croce è un segno di misericordia. Allora, tutte quelle contestazioni sul simbolo, ancorché si sia magari voluto prendere in prestito, mi stanno a confermare che allora non, per le donne non c'è misericordia, o per lo stupro non serve il concetto della pietà. Insomma, mi pare che sia un'interpretazione comunque equivoca, perché se andiamo ad analizzare, dovrebbe essere una campagna scioccante naturalmente, perché parlare dello stupro oggi in Italia nel terzo millennio, di tutte le quantità, le decine e decine di donne che arrivano veramente semi, quasi menomate ai nostri sportelli, cosa significa? Significa che abbiamo un problema molto serio, che non possiamo rappresentare o celebrare la giornata mondiale contro la violenza con una caramella o con un fiorellino, basta, si presenta per quello che è, e lo stupro è una delle forme per infliggere la maggior sofferenza a un essere umano, il maltrattamento domestico altrettanto. E quindi noi abbiamo voluto con questa agenzia mettere a punto quella comunicazione. Poi c'è stata l'interpretazione politica, quella religiosa, ma entrambe le interpretazioni non hanno niente a che fare con il vero problema. Il vero problema è combattiamo, mettiamo un freno, facciamo delle politiche di prevenzione, di politiche sociali vere per contenere, per prevenire e per fare educazione alla salute e al benessere di queste donne che sono vittime oggi. Ecco. Allora, ricordiamo i dati Istat, lo ricordiamo anche quest'anno, perché ovviamente questa è una battaglia della quota rosa. Il 69,7% degli stupri è infatti opera del partner e il 17,4% di un conoscente. Solo il 6,2% è stato opera di estranei. Il rischio di subire uno stupro piuttosto che un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più stretto è la relazione tra autore e vittime. Quindi mi sembra che ogni anno dobbiamo purtroppo ripetere sempre gli stessi dati, e qui bisogna proprio cambiare le coscienze, e le donne devono denunciare anche il proprio partner. La quota rosa. Una puntata interamente dedicata al tema della violenza sulle donne, un tema che purtroppo è di recente attualità, visto la strage di Verona. E allora noi vogliamo anche ritornare a parlare di donne a livello internazionale. Elena Doni, giornalista, autrice del Volto cancellato, storia di Fakra dal dramma alla rinascita, e anche tra le autrici di Amori assassini. Quanto lei ha scoperto nel suo lavoro, quanta violenza viene perpetrata dentro le mura domestiche? Ma il titolo di questo libro, che è stato scritto da 13 autrici, tra cui alcuni nomi ben noti come Dacia Maraini, Elena Giannini-Belotti, Lia Levi, eccetera, eccetera, diciamo, il titolo Amorosi assassini voleva proprio sottolineare quello che è stato appena detto, e cioè che il rischio maggiore è tra le pareti domestiche, e ce ne siamo accorte, si poteva intuire, ma ce ne siamo accorte proprio strada facendo, perché era nostra intenzione raccogliere tutti i casi di violenze contro le donne avvenuti in un anno. Poi via via ci siamo accorti che non era possibile, perché le denunce erano 4.500 e si calcola che denunciano 5 donne su 100, su per giù. L'Istat ha fatto un grande lavoro di ricerca su questo, sentendo 25.000 donne che, diciamo, alle quali nel corso degli anni è stato chiesto se avevano subito violenze di vario tipo in famiglia, e queste hanno detto, tantissime purtroppo hanno detto di sì, e hanno detto però anche che non hanno denunciato, e tra l'altro con grande emozione, dolore e pianti nel confessare questa cosa. Quindi il rischio è in famiglia molto, tra i conoscenti come è stato appena detto, ma anche nella scarsa percezione di tutto ciò, a cominciare da noi. Ci siamo meravigliate noi stesse, noi non siamo riuscite a mettere tutti i casi di violenze, proprio perché erano troppi. Abbiamo ingrandito, diciamo, alcuni casi perché ci sembravano più significativi, ma la cosa importante l'ha detta il ministro dell'Interno Giuliano Amato l'anno scorso, quando, cioè più di un anno fa. Governo, diciamo. Certo, e quando ha detto 1 milione di donne ogni anno subiscono subiscono violenze in Italia. È una cifra induttiva che nasce appunto dal fatto della rarità delle denunce, e questo è stato possibile ricostruirlo proprio attraverso la lunga indagine durata 5 anni fatta dall'Istat. Infatti il sommerso, dicono i dati Istat, è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner. La violenza ripetuta avviene più frequentemente da parte del partner che non da parte del non partner, scusate il gioco di parole. Tra tutte le violenze fisiche rilevate, la più frequente è l'essere spinta, strattonata, afferrata, l'aver avuto storto un braccio o i capelli tirati, l'essere minacciata di essere colpita, quindi anche una violenza morale, schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi. Segue poi l'uso o la minaccia di usare pistola o coltelli, o il tentativo di strangolamento o soffocamento e ustione. Insomma, un quadro non certo rassicurante. Allora, io vorrei dare la parola a Gianna Urizio, Associazione Donne in Genere contro Donna Lisa, e Centro Donna Lisa tra le organizzatrici della manifestazione di Roma di oggi. Qual è la situazione? Che cosa denunciate nel vostro centro? Chi accogliete? Allora, innanzitutto buongiorno a tutte quelle che ci ascoltano e a voi anche, alle altre donne che sono in linea. E noi oggi avremo questa manifestazione che è stata organizzata da un coordinamento nazionale a cui partecipano donne di ogni genere, moltissime giovani oramai, e anche la rete di centri antiviolenza. Noi nel nostro centro abbiamo uno sportello Donna Ascolta Donna, e vengono le donne con tutti i gradi e tutti i tipi di violenza, che non sono solamente le violenze fisiche, che anzi quelle sono già quindi una grave rottura della dignità della persona, ma anche le violenze che cominciano con la svalutazione della donna, che quindi è una violenza psicologica, violenze economiche, limitazione di accesso a, come dire, al bene, ai beni comuni, a una continua pressing sulla donna che va in una situazione di stress, eccetera, e che molte volte tace per figli, preoccupazioni, difficoltà economiche, eccetera. Questa è la realtà, no? E le donne a volte proprio, magari anche proprio per i figli, trovano il coraggio di rompere queste catene e di uscire e di cercare un aiuto. Questo aiuto viene in modo particolare proprio dai centri donna, nel senso che una donna sente lì una relazione informale, orizzontale, non verticale, non autoritaria, proprio per dire i problemi che c'ha. E quindi noi per questo organizziamo questa manifestazione, proprio per far emergere, per dar coraggio anche alle donne, per dire alle donne: scendi in piazza oppure vieni ai centri, vieni a essere ascoltate, eccetera. La manifestazione di oggi però c'ha un titolo particolare, che è Indecorose e Libere. Questa manifestazione in qualche modo è il risultato di un percorso che è avvenuto dalla grossa manifestazione dell'anno scorso, il 24 novembre, ad oggi, e cioè il fatto di ricollocare il tema della violenza alla famiglia, che sembra inafferrabile, no? Nel senso che è difficile acchiappare, e ha una condizione di cultura che è anche una cultura delle istituzioni, e cioè il fatto che su queste tematiche, questa tematica si aggrava ulteriormente dalla crisi economica, dai tagli effettuati da questo governo in questo momento. Pensiamo solamente ai 20 milioni di euro tagliati per centri donna che accolgono le donne e via dicendo. Quindi, come dire, un click che noi abbiamo cercato di fare, di offrire alle donne che manifesteranno con noi oggi, tra condizione familiare, quindi cultura delle famiglie, e cultura generale della società, no? L'omertà che scatta, i silenzi, e anche, se mi permettete, il fatto di trasporre questo tema e il problema della violenza contro le donne da un problema appunto di cultura patriarcale a un tema di sicurezza di ordine pubblico. Ecco, voi nel vostro volantino dite: la violenza maschile è la prima causa di morte e di invalidità permanente delle donne in Italia come nel resto del mondo. Cioè, voi avete verificato questi dati? Sì, questo dato è assolutamente, voglio dire, noi non avremmo la possibilità di verificare un dato di questo genere, è un dato pubblicato nei documenti delle Nazioni Unite. cioè non è un dato nostro, no? Come del resto la signora Elena Doni citava i dati dell'Istat, così noi possiamo citare i dati dell'ONU, sono questi dati. Ho capito, che sono stati monitorati più volte, l'ultimo dato del 2005. Allora, Giuseppina Accardo, organizzatrice di alcune iniziative dirette ai ragazzi delle scuole nel comune di Castelvetrano in provincia di Trapani. Una sorta di educazione di genere? Infatti. Buongiorno, intanto io insegno in un liceo delle scienze umane nel mio paese, Castelvetrano, e l'iniziativa che abbiamo svolto con i nostri ragazzi è finalizzata poi a una manifestazione che avrà luogo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo avuto l'opportunità di organizzare un laboratorio partendo dagli stereotipi legati al genere, quindi abbiamo lavorato intanto sulla differenza tra essere maschio e essere femmina, e poi ci siamo serviti di tutti quei dati che ci consentivano un po' di monitorare la percezione della violenza sulle donne dalla prospettiva. Ecco, cosa ha detto ai ragazzi che partecipavano a questo corso, magari anche e soprattutto ai maschietti, ecco, sì, ai suoi allievi maschi? Sì, diciamo non sono moltissimi, ma siamo partiti proprio dalla loro esperienza, semplicemente facendo alcune domande, ma quali sono i vantaggi di essere maschio o di essere femmina, oppure ancora ci sono delle attività che pensate che siano esclusivamente maschili o femminili, e poi siamo passati dall'esaminare appunto le immagini pubblicitarie, dalle riviste, dei giornali, gli spot televisivi, per mostrare le differenze legate allo stereotipo, e da qui poi siamo partiti ancora nel rilevarle attraverso delle griglie, ci abbiamo lavorato su, e poi abbiamo messo insieme dei PowerPoint, ci siamo documentati sul fenomeno, diciamo. Quindi alla fine poi i ragazzi sono rimasti stupiti dell'enormità del problema. Sentivo poc'anzi da chi mi ha preceduto, è un fenomeno molto grave, si parla proprio di femminicidio, non c'è questa percezione, eppure anche guardando semplicemente i quotidiani, abbiamo fatto un lavoro semplicissimo su un quotidiano locale che registrava i casi di violenza sulle donne per il 2008, i casi sono moltissimi, che invece diluiti nel corso dell'anno sembrano irrisori, invece le ragazze sono rimaste stupite dal numero esorbitante. Poi abbiamo visto che in realtà è la punta dell'iceberg, perché abbiamo parlato anche con le forze dell'ordine, soltanto il 6%, per esempio in Sicilia ci hanno detto, denuncia, e quindi soltanto il 6% ha la possibilità che questa denuncia poi sia passi nei giornali, ecco. Quindi è un fenomeno molto grave, soprattutto perché è un fenomeno culturale, che ha radici, diciamo, culturali. La nostra scuola contribuisce attraverso questo laboratorio, e poi avremo dei relatori proprio per il 25, psicologi che lavorano presso associazioni, quindi più che altro è stato un documentarci su un problema che ha tante sfaccettature, quindi abbiamo studiato anche la violenza. Insomma, avete educato i ragazzi. La quota rosa. E bentornati alla quota rosa, in questa puntata dedicata alla violenza sulle donne, una violenza che, come abbiamo visto, addirittura ha degli epiloghi terrificanti, come il caso di Verona, dove un commercialista ha sterminato la famiglia, ha ucciso moglie e tre figli e poi si è suicidato. Per parlare di prevenzione, di solidarietà e di libertà, questo è lo slogan, ci sarà un incontro con la senatrice Vittoria Franco e con l'onorevole Walter Veltroni il 24 novembre a Roma al Teatro Centrale. Buongiorno onorevole Franco, senatrice Franco. Buongiorno. Lei però ha anche in mente un progetto di legge, ce lo vuole spiegare? Sicuramente, e infatti il 24 sottoporremo proprio all'attenzione dei centri antiviolenza un nostro disegno di legge che si occupa di loro e solo di loro, cioè non si occupa in generale della violenza sessuale o dello stalking, che peraltro sono argomenti che sono già in trattazione alla Camera, ma abbiamo voluto specificare il nostro obiettivo, che sono sostenere i centri. I centri antiviolenza sono un centinaio in tutta Italia, ma sono chi più e chi meno molto molto a rischio e molto molto in crisi sul piano del sostegno finanziario. Ecco, noi vogliamo… Pronto? Sì, certo, la stiamo sentendo. Sì, certo. Noi vogliamo creare a livello nazionale un fondo che dia certezze a questi centri, una diciamo istituzione che noi abbiamo chiamato registro, cioè qualche cosa che prenda nota dei centri accreditati, cioè di quelli che svolgono funzioni in base a degli obiettivi che poi vengono definiti dal centro, da un organismo che abbiamo previsto che si occupi dell'accredito, dei criteri dell'accredito e di come distribuire i fondi. Questi centri svolgono un'attività davvero preziosa perché vanno dalla consulenza legale all'assistenza psicologica, all'accompagnamento nel percorso di recupero dell'autostima, perché questo è anche un dato, che la donna che non denuncia è perché tante volte non riesce neanche a capire che quella violenza che subisce è un reato e che non viene meno come reato semplicemente perché è commesso dal marito, dal fidanzato. Infatti ne abbiamo parlato, onorevole Franco. Io, senatrice, un attimo la interrompo perché diamo la parola anche all'onorevole Roberta Angelilli, europarlamentare della PDL. Durante questa puntata nella quale abbiamo parlato con tutte le donne che si occupano di violenza contro le donne, è emerso che il governo italiano ha tagliato i fondi. Voi a livello di Europarlamento che cosa state facendo per questo tema? Allora, stiamo cercando di fare quello che ovviamente è possibile compatibilmente con le risorse finanziarie che sia in Italia che ovviamente in Europa purtroppo sono insufficienti rispetto soprattutto alla portata del fenomeno. Questa mattina a Roma abbiamo svolto un incontro ufficiale in Campidoglio con proprio alcuni rappresentanti sia del Ministero delle Pari Opportunità che della Commissione europea, proprio per lanciare un grido d'allarme e una richiesta di aiuto concreta su questi temi. In particolare abbiamo chiesto alla responsabile del programma Daphne affinché anche la Commissione faccia la sua parte, cioè non si sottragga, intendo dire la Commissione europea, non si sottragga alle sue responsabilità. Immagino che voi avrete già citato i dati, io però lo voglio ribadire, il Consiglio d'Europa ha appena chiuso una grande campagna che ci dice come primo dato scioccante che la violenza in Europa è la prima causa di morte e di mutilazioni e miete più vittime del cancro e degli incidenti stradali. Sì, questo l'avevamo detto. Abbiamo anche visto, lei che è europarlamentare, questo problema che si è verificato in Francia, dove un giudice ha ritenuto le nozze valide perché una musulmana si era sposata, non era vergine e praticamente il marito pretendeva il divorzio. A livello di diritti, anche per quanto riguarda l'accoglienza degli extracomunitari, state facendo qualcosa? Assolutamente sì, questo è un altro versante tragico di violenze sulle donne, di diritti negati. Lei ha parlato adesso di questa sentenza scioccante, ma noi abbiamo delle piaghe aperte, il problema dei matrimoni forzati, dei matrimoni prematuri, abbiamo il problema delle mutilazioni genitali che davvero per le donne che le subiscono è un trauma che si portano dietro tutta la vita, quindi c'è davvero tanto da fare sia per quanto riguarda le donne italiane, ma non dobbiamo dimenticare le tante donne immigrate che sono da noi, che lavorano e che quindi devono godere dei pieni diritti, quindi il diritto alla legalità, il diritto all'integrazione e soprattutto il diritto, diciamo, alla salute fisica e ovviamente anche psicologica. Senatrice Franco, lei ha qualcosa da dire? Il governo ha tagliato i fondi, lei è dell'opposizione, poi è Partito Democratico, diamo la parola anche all'opposizione. L'abbiamo denunciato questo al momento in cui ciò è accaduto per coprire l'abolizione dell'ICI sulla prima casa a tutti, quindi anche alle persone benestanti, erano stati tolti al Ministero delle Pari Opportunità proprio su questo capitolo, cioè piano d'azione contro la violenza sulle donne, 20 milioni e che sono 20 milioni che comunque sono stati tolti al Ministero in quanto tale. No, io voglio anche ricordare però un altro fatto grave, per fortuna anche quello rientrato grazie alla nostra opposizione. c'è stato un momento in cui si sono sospesi i processi, si stava per fare una misura che avrebbe sospeso 100.000 processi, e fra questi la maggior parte riguardavano proprio stupri, violenza sulle donne, sfruttamento della prostituzione, eccetera. Quindi diciamo che quando viene meno l'attenzione sulla parità, sull'eguaglianza, sulla libertà delle donne, capitano delle cose che per noi sono inaccettabili. Concorda con il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna sul disegno di legge sulla prostituzione e sullo stalking? Beh, sullo stalking ci sono molti punti di convergenza, anche perché la ministra Carfagna ha ripreso molte delle proposte che già la ministra Pollastrini, che la precedeva in quello stesso ministero, aveva fatto ed era già stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, quindi per quel problema lì che è molto grave. Ricordiamo che sono molestie che vengono fatte. Atteggiamenti persecutori, molestie sì, ripetute che perseguono una donna o comunque una vittima. Sulla prostituzione invece noi abbiamo idee molto diverse dalle sue e quindi abbiamo fatto anche lì le nostre proposte. Noi riteniamo che il primo obiettivo da colpire sia la tratta e il racket che c'è sulle donne, soprattutto donne immigrate, che questo richieda misure più efficaci di quelle che sono previste nel suo disegno di legge. Roberta Angelilli invece concorda con il disegno di legge del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna? Ma io parto dal presupposto che quando ci si batte per l'affermazione e per la garanzia dei diritti dei cittadini, dei diritti umani, dei diritti delle donne, bisogna trovare dei punti di convergenza. Quindi, visto che parliamo del governo italiano, che parliamo del Parlamento e del Senato italiano, io proprio lancio un appello. Lavorare al massimo per cercare dei punti di convergenza, perché l'obiettivo ovviamente non può essere la polemica politica, né da parte del governo, certo, né da parte dell'opposizione, però abbiamo... ma i fatti. D'accordo, io spero che questa convergenza ci sia sempre. Devo dire che, conoscendo la senatrice Vittoria Franco, polemiche poche, fatti molti. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a laquotarosa@radio24.it. Una buona giornata di lotta da Elisabetta Fiorito.